Ma cos'è quest'estate? Ritrovati a tutti da Laura Bettini per questa puntata di Ma cos'è quest'estate, che inizia in un momento di allarme, almeno per Radio 24, completamente disconnessa da qualunque fonte di informazione via internet. Quindi funziona tutto ciò che è analogico. Oggi, se ci volete telefonare, c'è l'800 24 00 24. Per il momento SMS e WhatsApp non riusciamo a leggerli, ma insomma sicuramente riusciremo a fare tutto quello che è nei nostri programmi, perché grazie a Dio la radio è così. Allora, oggi di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare sicuramente in questa prima parte di puntata di questi allarmi sempre più frequenti che arrivano dalle città, che riguardano le risse tra adolescenti. Ebbene, ho fatto una piccola, così, un piccolo riassunto questa mattina. Basta digitare risse adolescenti e, ad esempio, la ricerca Google, ma ogni motore di ricerca sicuramente proporrebbe qualcosa di simile, ci evidenzia che nelle ultime due settimane ci sono state risse tra gang di adolescenti, ad esempio a Domodossola e Verbania, a Genova, a Marina di Grosseto, movida violenta maxi rissa notturna tra adolescenti a Trastevere, e poi ancora maxi rissa sul lungomare di Reggio Calabria tra adolescenti, e ancora furti, risse e vandali in comune la collera dei vicini delle Indie, qui siamo sul Corriere di Romagna, e poi rissa tra minori, tavolo del Garante metropolitano, e questa è invece Milano. Insomma, sembra essere un allarme davvero diffuso e che riguarda un po' tutta Italia. Quindi vogliamo, ora poi c'è stato questo commento di Galli della Loggia, Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che ha sollevato una serie di interrogativi su una nuova lotta di classe attraverso il virus. Ma al di là di questo, cominciamo dalla cronaca, cominciamo dagli amministratori che tutti i giorni devono confrontarsi con queste cose. Sicuramente la città di Roma è, diciamo così, in prima linea per dimensioni del fenomeno, per ripetitività e anche forse per aggressività, chi lo sa, di questi ragazzi. Abbiamo in collegamento con noi Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio 1 di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Abbiamo letto diversi episodi di cronaca che riguardano in particolare Trastevere. Ci conferma che è così, insomma, non è gonfiata, diciamo, dalla stampa la situazione. Sono diversi? No, sicuramente sono diversi, ripetuti, quasi, diciamo, ogni sera, nei venerdì, sabato e domenica, diciamo, da subito dopo l'apertura del lockdown. Questo è stato il fenomeno. Credo che ci siano tanti fattori scatenanti, non sono minimamente d'accordo con Galli della Loggia. Ieri, quando l'ho letto, sono rimasta un po', diciamo. Sì, bisogna così leggere l'originale, vero? Perché se uno legge degli estratti, non si fa io il leggo quadro. Sempre gli originali, stando spesso nelle notizie, non bisogna leggere solo i titoli e bisogna leggere gli originali, diciamo, perché sennò veramente uno fa confusione. Però l'ho detto, l'ho ripetuto, ho scritto anche delle lettere, ho interloquito col questore, col prefetto, con la sindaca di Roma. Noi sicuramente abbiamo il primo tema, è quello sicuramente della voglia di uscire e di esprimersi dei giovani che sono stati così tanto chiusi dentro casa. Ma non è solo il fatto di essere chiusi, ma di non avere la scuola, i loro momenti aggregativi, che sappiamo che sono fondamentali per quell'età. Ma quindi lei lo vede un po' più come uno, come dire, non ho nei miei quartieri, ovunque essi siano, più o meno pregiati, diciamo così, della città di Roma. No, ma non è una questione di pregio, mancano le attività da fare, dice. A Roma in questo momento manca tutto. Noi non abbiamo l'estate romana, non abbiamo iniziative, molte sono saltate perché non hanno fatto in tempo a mettersi, diciamo, in regola, no, con le regole del Covid. Allora Trastevere, perché Trastevere? Chi conosce un po' la città sa che a Trastevere da 35 anni ci sono tutte le attività lungo tutta la sponda del fiume. Quest'anno non c'è niente lì, quindi molto spesso si arriva a Trastevere anche pensando di andare in uno di questi luoghi e ci si ritrova a stare, a stazionare in questi piccoli vicoli e con queste piccole piazzette senza avere nessun diciamo motivo, cose da fare, con un controllo, perché comunque c'è il controllo da parte dei locali per non far fare assembramenti, perché loro sono direttamente responsabili, quindi c'è comunque un clima di tensione. E come raccontavo ieri, è come dire che allo stadio ci vanno tutte persone violente. Quante sono le persone che vanno allo stadio, quante sono le curve violente che poi scatenano gli incidenti che conosciamo. Ecco, è un po' così, ci sono questi microfenomeni di gang, quello che esattamente lei ha raccontato, che a quel punto mettono nel panico un intero rione, un intero quadrante, anche perché qui parliamo appunto di Trastevere come di monti, parliamo di piccoli vicoli, di piazzette, cioè di situazioni che non riescono assolutamente a gestire, no, questo flusso quando ci sono questi innesti violenti. Dopodiché c'è un altro tema, io l'ho detto, l'ho scritto, c'è stata anche una votazione del nostro consiglio municipale, c'è sicuramente un tema di vendita degli alcolici oltre orario, soprattutto di questi negozi di vicinato che vendono questi sciottini a un euro. Certo, lì non è questione di chiudere i bar, bisogna, cioè, sì. Lì chiudiamo, se non riusciamo a fare come abbiamo viaggiato tutti, come nel resto dell'Europa, dove dopo una certa ora ci sono i cancelli alle vetrine, no, degli alcolici, e ti vendono solo gli altri prodotti, noi dobbiamo, non so, tutti i negozi di vicinato, queste simili frutterie che ne hanno aperte una quantità perché sono negozi tutelati, per cui possono aprire con grande facilità, dobbiamo mettergli l'orario, noi gli chiediamo alle 21 come i supermercati, cioè non ci può essere la vendita di alcol. Sì, anche una concorrenza scorretta, diciamo così. Assolutamente, rispetto a chi... ma poi noi, guardi, in questi 8 anni che io sono al secondo mandato, l'abbiamo seguito molto attentamente anche per la questione della salute dei nostri giovani. Cioè noi abbiamo chiuso esercizi come questi che vendevano alcol ai minori, è dire, un reato. Certo, adesso mi lasci presentare la nostra seconda ospite, che tra un attimo riprendiamo. Allora, abbiamo in collegamento anche Maura Manca, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale dell'Adolescenza. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le persone sintonizzate con noi. Allora, noi siamo partiti da proprio una segnalazione di serie di episodi di cronaca che riguardano Roma, ma riguardano anche molte altre città italiane in questo periodo, che riguardano in particolare adolescenti, quindi ragazzi un po' più giovani, diciamo, di quelli che altre volte abbiamo visto coinvolto in queste situazioni. C'è un è un periodo particolare anche dal suo punto di vista, o come capita a volte, no, la cronaca prende di mira una serie di episodi e si va avanti a cercarli in tutte le città italiane? No, non è un periodo particolare, non possiamo attribuire al post lockdown l'incremento della violenza giovanile, sarebbe un grandissimo errore. È una fase in cui si parla maggiormente, come poi sono state altre fasi a livello di cronaca in cui si parlava e sembrava che in Italia ci fossero solo le baby gang. È una costante, purtroppo. Cioè, lo sto dicendo in negativo, non in positivo. Ecco, purtroppo, quindi ci sono sempre, non è che ci sono adesso. Ecco. Esatto, ci sono tanti episodi che non arrivano alla cronaca, che sono più nascosti, ma che sono quotidiani. E l'età di questi ragazzi coinvolti è sempre più bassa, quindi parliamo addirittura di preadolescenti, già 11-12 anni, che si strutturano in queste bande giovanili. Ci sono sempre più donne all'interno, quindi anche ragazze che si identificano con questi comportamenti. E l'altro allarme che noi è quasi 10 anni come osservatorio nazionale stiamo rilevando è l'uso delle armi, quindi tirapugni, manganelli, coltellini e tutta una serie di appunto oggetti che loro possono utilizzare, non solo reati quindi violenti diretti alla persona, ma poi, come abbiamo visto, anche droga, anche altri tipi di reati tra furti, rapine e scippi. Allora, e questo è quello che lei chiama maladolescenza? In un certo collegato senso a quello? L'esito, esatto, in certo senso sono comunque ragazzi che sono un esito di qualcosa che non ha funzionato, questo è importante dirlo, non si nasce così, non c'è il gene della gang, non c'è il gene di questo tipo di comportamento, ci possono essere delle predisposizioni a livello di temperamento, ma poi ciò che influenza il comportamento di questi ragazzi è la somma di tante variabili, di ambiente, di modelli educativi, di tante cose che sono mancate, che continuano a mancare, nonché tutti gli aspetti poi legati anche alle modificazioni cerebrali tipiche di quella fase di età, ma non si dà la colpa a un singolo fattore, ma la somma di tanti fattori. Allora, noi abbiamo recuperato in un barlume di normalità le informazioni per il traffico e quindi sentiamo quelle e torniamo tra un attimo. Ed eccoci di nuovo insieme, l'ho detto, ho portato un po' di fortuna perché almeno il collegamento internet è stato ripristinato a Radio 24 e quindi possiamo, diciamo, ricominciare a collegarci con il mondo. Abbiamo in collegamento invece telefonico Sabrina Alfonsi, che è la presidente del Municipio 1 di Roma, e Maura Manca, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale della Adolescenza. Maura Manca, stavamo dicendo poco fa, appunto, abbiamo tutta una serie di episodi che purtroppo non sono solo di quest'estate, ma sono così costanti, soltanto non vengono magari segnalati tutte le volte, e le ho sentito dire in un convegno, insomma, noi interveniamo solo spesso a fatto compiuto, invece manca la quotidianità del seguire questi ragazzi, è così? Sì, è così, non siamo particolarmente efficaci in ambito preventivo, perché essere efficaci in ambito preventivo significa riconoscere i segnali. Significa arrivare quando si stanno strutturando questi comportamenti e non sono ancora così gravi e strutturati. Perché quando i ragazzi si riuniscono in questo tipo di gruppo, la domanda è perché? Perché si riconoscono già tra loro, perché si identificano in quei valori, perché hanno già strutturato un modus operandi di gruppo e un'identità in quel gruppo. Quindi se noi interveniamo lì, significa che il problema è già evidente, è già manifesto, il recupero di questi ragazzi è molto più lungo. Cioè, noi dobbiamo arrivare prima. Perché io ho bisogno di quel comportamento? Perché io mi identifico in quel gruppo? Significa che la deviazione è già antecedente a quel problema. Solo che noi non interveniamo già a partire dalle scuole dell'infanzia, già a partire dalle scuole primarie. Ma il problema sul quale possiamo intervenire, cioè qual è, come possiamo intervenire? Ogni ragazzo è un mondo. Esatto, ci sono, allora, se interveniamo quando in questo caso il problema è strutturato, perché poi qual è l'altra pecca del nostro paese tipicamente? Che noi li mettiamo in comunità, li allontaniamo dalla famiglia o li mandiamo in base alla gravità del reato ai servizi sociali e poi se noi non facciamo una diagnosi individuale fatta bene, è un percorso di recupero individuale invece di buttarli lì e lasciarli abbandonati a loro stessi, magari rinforzandosi anche all'interno di un nuovo gruppo che è quello della comunità o è quello dei servizi sociali, riavremo di nuovo poi ragazzi un po' più grandi con lo stesso identico problema. Questo accade nella maggior parte dei casi quando ovviamente i comportamenti, quando parliamo di personalità più antisociali, più dominanti, ovviamente ci sono anche i ragazzini gregari, ecco perché dico la diagnosi appropriata, è l'errore che facciamo noi qui, perché molte volte ci sono ragazzini che fanno parte di queste bande, ma magari lo fanno solo per approvazione, si recuperano con molta più facilità rispetto a chi è più strutturato in questo tempo, ma invece di entrare prima, significa fare anche dei percorsi sistematici di lavoro sui gruppi, sui ragazzi, sulle emozioni, sulla gestione dell'impulsività, sulla gestione delle relazioni. Adesso poi perderemo ancora di più tutto questo, dobbiamo anche dirlo, perché col distanziamento, perché con tutti i nuovi aspetti che andremo ad affrontare a scuola, purtroppo noi inizieremo a perdere anche questo tipo di lavoro, e io credo che rischierà poi di andare a gravare su chi ha più disagi, che appunto perderà anche quello che era il contenimento della scuola e di tutto quello che si poteva dare, perché anche a scuola quest'anno almeno andremo ad affrontare problemi diversi, e quindi il gruppo e tutto quello che sono i lavori fatti su questo verranno messi da parte. Certo. Sabrina Alfonsi, lei nella veste di presidente del municipio 1 di Roma, appunto, ha da una parte i suoi di ragazzi, immagino, e dall'altra quelli che vengono da fuori. Certo, conciliare le esigenze degli uni e degli altri, lei deve tener conto, no? della sì, parte educativa, questa, prego. Sì, questa divisione, per quanto mi riguarda, è già una divisione esasperata, nel senso che purtroppo, per fortuna, perché ci sono pro e contro su tutte e due le situazioni, a Roma la maggioranza degli istituti superiori, siano essi tecnici o soprattutto licei, sono nel primo municipio. Quindi noi abbiamo una mescolanza di ragazzi, per fortuna. Abbiamo la possibilità di vivere il centro della città a tutti i ragazzi. Per questo io non ero d'accordo, non sono d'accordo con Galli della Loggia, perché l'estate romana di Nicolini ha dimostrato invece quanto la bellezza di Roma messa a disposizione dell'intera area metropolitana ha dato dei risultati, perché si interveniva su un punto di vista culturale, di bellezza, e quindi anche si fa apprezzare a tutti le potenzialità di questa città, e non ci si divide tra un centro e delle periferie dormitorio. Dopodiché io sono completamente d'accordo su alcune analisi che ha fatto la dottoressa sul fatto, per esempio, che bisogna fare dei percorsi. È una, sicuramente un'adolescenza e una post-adolescenza fragile, hanno bisogno di gruppi. Il problema è il contenuto del gruppo. Noi per esempio abbiamo lavorato tantissimo sulle attività extrascolastiche, in particolare sulle scuole musicali, abbiamo orchestre e cori in abbondanza, ma anche di ragazzi del liceo, di ragazzi che continuano un percorso con i loro ex compagni, dove sostanzialmente c'è un gruppo forte, ma che c'ha che ha un obiettivo diverso, la musica, e quindi si vedono per quell'obiettivo, vanno a fare le prove e poi escono, ma sono loro, viaggiano, si confrontano, abbiamo fatto dei progetti europei, quindi sono andati a suonare all'estero, e questi altri ragazzi sono venuti a suonare in Italia. Ecco, io penso che la prevenzione, questo è un esempio, ovviamente sicuramente questo è stato più facile, avevamo più risorse, avevamo tutto nel centro storico della città, ma io penso che le istituzioni, perché ognuno deve fare la sua parte, no? Quando si dice che i percorsi, ci sono percorsi che sono clinici o paraclinici, che sono psicologici, ognuno appunto deve fare la sua parte, le scuole devono fare la loro parte, le istituzioni devono sicuramente mettere in campo dei progetti che interessano i giovani, e che quella propensione al gruppo non diventi branco e abbia all'interno un contenuto che sia un contenuto assolutamente diverso da quello della violenza. Io vi ringrazio davvero tanto, siamo andati oltre i nostri limiti, abbiamo già in linea il prossimo ospite. Grazie. Sabrina Alfonsi voi. E Maura Manca, grazie davvero, buon lavoro, buona estate. Grazie a voi. Ma cos'è quest'estate? This is no time for celebration. This is no time for shaking hands. This is no time for backslapping. This is no time for marching bands. This is no time for optimism. This is no time for endless thought. This is no time for my country right or wrong. Remember what that brought. Sta arrivando il grande caldo, l'abbiamo sentito in tutte le previsioni meteo degli ultimi giorni, ci saranno temperature veramente altissime nei prossimi giorni in Italia, ma la questione è che ha piovuto troppo poco, o comunque ha piovuto con quelle famose cosiddette anche scorrettamente bombe d'acqua, ma non ha irrigato i campi, no? Non ha potuto dare da bere alle piante. Di questo parliamo, abbiamo già in collegamento Francesco Vincenzi, che è il presidente di AMBI, che è l'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, devo una risposta a un ascoltatore su tutt'altro argomento. Si ricorda la questione dei banchi, no? Quindi dove tocchi banco, qui la gente in Italia esplode. Quindi mi chiedono chi deve sostenere le spese per lo smaltimento dei vecchi banchi. A quanto ci aveva detto il presidente di Vasta Arredo, Salvatorelli, erano loro che dovevano consegnare i banchi nuovi e ritirare i banchi vecchi. Quindi un uno contro uno, un po' come succede, non so, con le lavatrici, ecco, per intendersi. E qui chiudiamo il capitolo banchi e le domande che arrivano e passiamo alla questione acqua. Allora, ho visto nel vostro report così generale che la situazione è un po' difficile dappertutto, nord, centro e sud, e mi è stato detto anche che per il primo anno un po' tutti hanno dovuto far ricorso appunto ai canali irrigui in Italia per tutte le colture. Certo, è un anno particolare, un anno che è caratterizzato da una siccità, vero, a macchia di leopardo, ma comunque su tutti i territori nazionali, quindi dal nord al sud stiamo soffrendo la siccità. La stiamo soffrendo perché le piovosità che abbiamo è una piovosità che viene, come ha ricordato lei, in modo disorganizzato, viene in momenti molto intensi, mentre dall'altra parte l'agricoltura e i nostri campi avrebbero bisogno di una pioggia più costante. Se lei pensa anche che da gennaio a maggio non sono piovuti, l'80% in meno della pioggia che piove in un anno, si può immaginare questo cosa significa per la partenza delle principali culture. E questo inoltre ha causato la mancanza di acqua nei grandi bacini, sia del nord ma soprattutto del sud Italia, con anche delle punte del 50-60% in meno della quantità disponibile alla partenza della stagione irrigua. 50-60 è certo. Tanta roba, insomma, è stato veramente un anno che è partito male, ecco, diciamo. Ma lì è partito malissimo, una grande preoccupazione. Per fortuna è piovuto nel mese di giugno in modo anomalo rispetto a giugno e luglio rispetto a un'annata normale, causando però naturalmente tantissimi danni, perché avete letto che le violenti piogge e queste bombe d'acqua non solo non danno sollievo all'agricoltura, ma soprattutto purtroppo si portano con sé gravi danni a causa di grandinate oppure eccessi di acqua con degli allagamenti. Senta, però nello specifico di questi dati avete evidenziato anche quello che sta accadendo in particolare nell'area della Romagna, dove la riduzione, no, delle piogge è ormai consolidata, diciamo, è un dato di fatto degli ultimi anni, tant'è che oggi inaugurate una estensione della rete irrigua di quell'area, l'impianto San Leonardo nei comuni di Forlimpopoli e Forlì. Quindi lì c'è una riduzione seria, perché sennò non si farebbe questo allargamento. Purtroppo, se uno guarda i dati, che ormai lo confermano da diversi anni, su tutta la fascia adriatica, ovvero cioè sulle coste, da diverso tempo piove molto meno rispetto a alcune aree interne. Per questo, come consorzi di bonifica, ci stiamo attrezzando e stiamo attrezzando i territori con degli investimenti importanti che vadano a mettere in condizione l'agricoltura di poter essere fatte. In quei territori sono territori particolarmente vocati per le culture di pregio, se pensi alle pesche, tutta la frutta e l'ortofrutta dell'Emilia Romagna, su quella fascia lì è una zona importante. Grazie. Tra l'altro sono Emiliano colture Romagnolo. Che hanno bisogno di acqua, cioè non è che siano cose che crescono nel deserto. Hanno bisogno di acqua distribuiti in modo corretto, perché ormai tutti i nostri impianti sono attrezzati per utilizzare al meglio l'acqua. Noi utilizziamo ormai sistemi che risparmiano anche il 50-60% di acqua rispetto degli impianti tradizionali. Se pensiamo allo scorrimento, usiamo solo ed esclusivamente impianti a goccia con delle centraline collegate ai dati meteo, collegate ai satelliti, che ci permettono di dare in modo puntuale, con un consiglio irriguo puntuale all'agricoltore, la quantità giusta, il modo giusto all'acqua quella cultura. In quel modo riusciamo a risparmiare tantissima quantità di acqua, ma soprattutto riusciamo a mantenere quelle caratteristiche organolettiche dell'ortofrutta di altissima qualità, che è il vero valore distintivo della nostra agricoltura. Allora, ho sbagliato, ho schiacciato il tasto sbagliato. C'è un agricoltore che dice: no, ma io il mais quest'anno l'ho fatto senza irrigare. Di beato lui, cosa dobbiamo dire? L'agricoltore bergamasco che è riuscito a fare tutto senza irrigare, che l'acqua ce l'ha. Abbiamo detto infatti che quest'anno parliamo di siccità, ma parliamo di siccità a macchie di leopardo. Quello che però non ci dobbiamo dimenticare è che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto le 3 annate più siccitose della storia del nostro paese. E questo ci deve fare riflettere, perché non possiamo, essendo in un paese del Mediterraneo, pensare di fare agricoltura senza la giusta quantità di acqua. E questo, come consorzi di bonifica, lo stiamo illustrando alle istituzioni, presentando dei progetti cantierabili anche in occasione del Recovery Fund, che ci permetterà, ci consentirà di cambiare anche il modello di sviluppo con un'attenzione al green molto più alta rispetto al passato, ma che ci permetterà di infrastrutturare il paese, se siamo bravi, anche in funzione dei cambiamenti climatici, perché il cambiamento climatico nel nostro paese fa sì che purtroppo l'agricoltura paghi molto lo scotto di questi cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda la siccità. Crediamo che con una progettazione sana, con riprendersi in mano quella che è stata la nostra paese, come un paese di ingegneria idraulica che ha da un lato bonificato i terreni e dall'altra parte dato l'acqua all'agricoltura, crediamo che in questo momento sia opportuno, anche per far ripartire il paese dal punto di vista dell'occupazione, della bellezza dei territori, investire sulla sicurezza dei territori, quindi dalla difesa dell'acqua e della difesa dell'acqua. Sì, tra l'altro appunto l'acqua è fondamentale per l'agricoltura, ma anche per le persone, insomma, perché tutelare bene, no, tutte le risorse idriche è necessario, anche perché le città abbiano acqua, perché tutti abbiano l'acqua necessaria di qualità adeguata, ovviamente, ciascuno gli usi che deve l'acqua fare. L'acqua è un elemento essenziale, un elemento pregiatissimo. Nel nostro paese piove ancora abbastanza, perché piovono oltre 1000 millimetri di pioggia all'anno. Purtroppo solo di questi 1000 millimetri, solo il 10% viene trattenuto nei grandi invasi. Questo fa sì che quando vengono queste bombe d'acqua, invece di essere trattenuta, viene messa a mare attraverso i fiumi. Quando l'acqua diventa salata, perde il suo valore reale e non è più utilizzabile né dal punto di vista umano né dal punto di vista agricolo. Certamente. Allora, questione che affronteremo, perché io voglio tornare con voi dell'ANBI la prossima settimana su questa questione delle risorse irrigue italiane. Allora, una domanda viene dagli ascoltatori, ma è la stessa che avrei posto io, gli invasi, no? Gli invasi di raccolta. Yeah. Al sud siamo un po' più dotati, ma c'è un problema di manutenzione, se non sbaglio, ed è quello di cui vorremmo parlare. Al nord siamo meno dotati, perché qua abbiamo sempre pensato di essere a posto. E quindi lì vanno fatti. Nel nostro però paese io e lei ne parliamo da quanto? Cioè, questo mi viene da mettere le mani nei capelli, perché con la trasmissione vecchia che avevo, no? L'altro pianeta, che è anche defunta quella trasmissione lì ormai. Ebbene, parlavamo degli invasi da fare al nord. Sì, noi nel 2017 abbiamo lanciato il primo piano stralcio degli invasi, che oggi è finanziato per oltre 250 milioni di euro e che quasi tutti i cantieri stanno partendo per la messa in sicurezza di impianti di invasi che erano pieni di detrito, che mancava una piccola opera per essere finiti, e dall'altra parte per la costruzione di piccoli nuovi invasi sparsi nel nostro territorio. Purtroppo nel passato abbiamo investito parecchio al sud, grazie alla Cassa del Mezzogiorno, che soffriva in quel momento il Mezzogiorno di grandi siccità, e grazie alla Cassa sono state investite notevoli somme ed oggi vediamo che questo permette al sud, nonostante le grandi periodi di siccità, di avere una giusta quantità di acqua, diciamo così, all'interno degli invasi, mentre il nord, che in passato non ha mai sofferto problemi di siccità perché la piovosità e perché il clima ci permetteva di non avere questa necessità. C'era la neve in montagna che si scioglieva d'estate. Avevamo la neve in montagna, i ghiacciai, tutte queste cose qui, non si è mai pensato a un piano vero di invasi. Noi oggi riteniamo che sia importante riprendere in fretta questo tema, perché la resilienza ai cambiamenti climatici passa anche dal coraggio di infrastrutturare il nostro paese con degli invasi che non necessariamente devono essere di grandissime dimensioni, ma devono avere una capacità di invaso che garantisca l'utilizzo sia umano, agricolo, ambientale e tutti gli altri usi che vengono, senza creare dei conflitti sull'uso della risorsa. Esattamente. Francesco Vincenzi, presidente dell'ANBI, la ringraziamo molto per essere stato con noi. Buon proseguimento, buona giornata, presto. Grazie a voi, buona giornata. siamo disposti a rischiare sotto il peso della Covid-19? Quanto lo eravamo prima, diciamo così, di conoscerla, e quanto lo saremmo adesso se si verificasse una pesante seconda ondata? E quanto un po' si sono chiesto le ricercatrici dello studio di cui parliamo adesso. C'è in linea con noi Chiara Cerami, buongiorno. Buongiorno a voi. Ricercatrice senior in neurologia della Scuola Universitaria Superiore di Pavia. Questo studio di cui parliamo adesso fa parte poi di un progetto più esteso che è stato avviato, vero, dopo il DPCM del 9 marzo, con cui è stato istituito il lockdown, per valutare le ricadute psicologiche e sociali di questa pandemia sulla salute, sull'economia, nella popolazione italiana. Quindi popolazione ad ampio spettro, vero? Non è che avete scelto, che so io, i medici, gli infermieri rispetto agli altri. 1300 era il campione diffuso. Sì, sì, abbiamo raccolto un spettro, insomma, di soggetti che coprivano l'interesse della popolazione italiana da nord, centro, sud, con particolare attenzione agli operatori sanitari, quindi comunque abbiamo cercato di includere anche questi, però confrontandoli con i lavoratori e non lavoratori in altri settori. Ok, quindi l'obiettivo l'abbiamo dichiarato, quanto erano disposti a rischiare, e poi cosa vuol dire, ecco, essere disposti a rischiare, forse? Perché intuitivamente io ho un concetto, però magari scientificamente è un'altra cosa. Allora, lo studio sicuramente si è focalizzato sull'attitudine al rischio, che è una abilità di decision making che ci consente di operare una scelta tra delle opzioni diverse, quindi opzioni che ponderano la probabilità di incorrere in una condizione solitamente economica, quindi di riuscire di vincita pensando a una lotteria. Idealmente la maggior parte dei paradigmi di neuroeconomia riguardano infatti delle lotterie economiche. In questo caso noi ci siamo però focalizzati su un nuovo task che valutasse degli outcome di salute e di occupazione, quindi cercando di capire proprio nei giorni successivi, insomma, al lockdown, come fosse cambiata in qualche modo il profilo di rischio, quindi l'avversione o la propensione a rischiare di incorrere in una condizione di salute più o meno grave, pensando all'asma, al diabete, ma anche a condizioni quali le infezioni da SARS-CoV-2 o il Covid sintomatico con ospedalizzazione, ad esempio, oppure a condizioni di occupazione quali la cassa integrazione, la possibilità di essere messi in congedo obbligatorio, insomma, e così via, oppure fino alla perdita comunque del posto di lavoro. Di fatto, cioè, quello che ci ha colpito è il fatto che comunque fin dall'inizio, fin da pochi giorni dopo il lockdown, l'intera popolazione italiana ha in effetti mostrato una maggiore propensione al rischio per le due condizioni economiche che noi abbiamo posto in contrasto con la condizione classica monetaria. Proprio ritenendo, quindi scegliere tra salute e un po' di salute un po' e soldi, non so, mettiamo proprio brutale. È brutale, in ognuna abbiamo posto diversi interrogativi, quindi tre condizioni diverse. Una condizione monetaria in cui si chiedeva di scegliere, non so, tra il 10% di probabilità di ottenere 100 euro e il 50% di probabilità di ottenere 5 euro, okay? E quindi di operare una scelta all'interno di una condizione monetaria, quindi scegliendo in base a diversi outcome monetari, e invece delle scelte di salute, quindi scegliere di una probabilità di insomma, contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 oppure di avere outcome di salute diversi, quindi di essere affetti dalla malattia di Alzheimer, dal cancro e così via. Okay? Soppesando sostanzialmente ognuna di queste condizioni di salute, ognuna di queste condizioni di salute è stato dato un valore, ecco, un valore così come, no, per noi è molto più semplice immaginare un valore per quello che riguarda gli stimoli monetari, quindi sappiamo benissimo qual è il valore di un euro o di 100 euro. E certo, noi invece non abbiamo idea di cosa vuol dire contrarre un virus o no. Esatto, noi di fatto l'abbiamo comunque preliminarmente a questo risultato, abbiamo comunque chiesto a una popolazione di dare un valore alle varie condizioni di occupazione o di salute, quindi dare un valore al diabete, al fatto di essere affetti dal diabete o al fatto di essere affetti dalla malattia di Alzheimer, che è la condizione ovviamente diciamo, nella scala di gravità più in alto possibile, oppure di avere l'asma o la psoriasi, faccio un esempio. Sì. Okay? Quindi comunque questa è, diciamo, una fase preliminare necessaria, insomma, per l'attribuzione di un valore ai singoli item che sono stati inseriti nel nostro task, quindi comunque alle singole domande, mettiamola così, che sono state poste all'intera popolazione. Di fatto qualcosa del genere, diciamo, non è mai stato fatto prima, ma perché in ogni caso noi abbiamo avuto l'esigenza di confrontarci con una realtà del tutto nuova, con una situazione indubbiamente senza precedenti. Esiste una letteratura ampia sull'aumento della propensione al rischio in condizioni di pericolo, di crisi come i terremoti, le guerre civili e così via, però mai la popolazione su ampia scala, così, insomma, in maniera così brutale, è stata posta in una condizione di pericolo e tutta insieme, tutta contemporaneamente, indistintamente, senza considerare, insomma, le variabili. Certo, scientificamente un'occasione unica per voi, scientificamente, sì. Lo capisco. Beh, adesso, siccome purtroppo il tempo stringe, volevo capire lì per lì cosa hanno detto e in prospettiva poi se c'è una differenza, no? Perché adesso che è stata vissuta quella situazione. Quello che ci ha colpito è il fatto che in effetti il comportamento della nostra popolazione rispecchia un poco quello che sta succedendo, che probabilmente succederà anche nel prosieguo della fase 2, e sia mai succede, insomma, in caso di un passaggio, insomma, di un nuovo ondata di contagi, perché in effetti si è spezzata la nostra popolazione, secondo che fosse si trattasse di operatori sanitari o di altri lavoratori in altri settori, per quello che riguarda l'occupazione, per quello che riguarda, diciamo, la propensione al rischio. Il lavoratore, l'operatore sanitario ha percepito la gravità comunque per la salute, ma mantenendo un posto di lavoro fisso, quindi non interiorizzando, non percependo come un rischio individuale di fatto la possibilità di essere messo in cassa integrazione, sì, oppure di perdere il lavoro proprio. Esatto. Mentre il lavoratore, insomma, noi in ambito sanitario, di fatto ha vissuto fin dall'inizio l'incertezza di un futuro che di fatto è ancora così, è ancora poco chiaro. Quindi, a mio modo di vedere, diciamo, bisognerà stare molto attenti, perché potrebbe darsi che i lavoratori, non in ambito sanitario, comunque una fetta di popolazione, percependo un rischio per il proprio benessere occupazionale, economico, potrebbe mettere a rischio per la salute, per se stessi e per gli altri, insomma, l'intera popolazione. Cioè, quindi anteporrebbe anteporrebbe la sua sicurezza economica alla sicurezza della quindi, salute sua e degli altri. Sì, di fatto un po' a rischio, con comportamenti avventati, incauti, che possono essere, insomma, identificati, soprattutto per quello che riguarda, immaginiamo noi, i commercianti, gli autonomi e così via, cioè quindi quei soggetti che sono meno sottoposti, diciamo, o che comunque di fatto sono sottoposti a un controllo interno nel posto del lavoro e così. Indubbiamente, e questo è un aspetto importante. L'altro aspetto importante che mi premeva sottolineare è il fatto che va detto anche che una fascia della popolazione più fragile, quindi chi presenta patologie a rischio, patologie anche conclamate, patologie croniche come appunto diabete o malattie degenerative, potrebbe in una aumentata o distorta percezione del rischio per la salute incorrere in comportamenti anche incauti per la salute, quindi trascurare sintomi o recrudescenze della propria patologia di base. Ho capito. Per evitare, oppure per favorire un outcome migliore nel proprio ideale, che può essere non contrarre l'infezione da SARS-CoV in ospedale, in pronto soccorso. Ma dall'altra parte troverebbe medici e infermieri sulla difensiva invece, quindi anche lì ci avremmo una spaccatura, un allontanamento proprio dei due fronti totale. Questo sicuramente è la prospettiva, cioè io credo che eravamo già, ecco, a marzo in questa fase, una fase in cui avremmo dovuto considerare che i nostri comitati scientifici, insomma, gli organi governativi avrebbero dovuto tener conto di parametri e di cambiamenti psicologici che stanno avvenendo e che sono già in essere, che probabilmente minacceranno un po' il modo in cui reagiremo a nuove scelte, nuove decisioni, cioè dovranno essere condivise con la popolazione, dovranno essere raccontate e spiegate perché ognuno in questo momento, a seconda della del proprio vissuto personale, sta interpretando e quindi sta in qualche maniera reagendo senza, insomma, di fatto una guida sicura. Sì, sì, sì, certo, questo sicuramente è un aspetto, quello diciamo comunicativo e quello di ma anche di persuasione, di indirizzamento delle, no, delle varie situazioni, con una massima chiarezza che in effetti un po' manca, da quel, almeno a mio avviso, poi ognuno la veda come vuole. Si parla di tante cose che stanno intorno, ma si parla un po' meno di come comportarsi e cosa fare, dando un indirizzo specifico. E però io credo che il vostro studio sia da questo punto di vista molto interessante anche per i decisori politici, perché sapendo che cosa c'è davanti, beh, bisognerebbe prendere delle decisioni e fare delle scelte e indirizzare, insomma, anche la politica in quel modo. Lo trasmetterete? Sì, dai, diteci di sì, che così almeno. Sì, no, lo studio ci siamo già online, insomma, insomma pubblico, insomma, comunque ormai la rivoluzione scientifica, insomma anche il Covid ha portato anche una rivoluzione scientifica, per cui ormai lo sharing e l'avanzamento, insomma, è anche... dai, si può raggiungere anche Palazzo Chigi, dai, su, poi, via mail. Poi, esatto, ecco, bisogna aprire le orecchie, trovare qualcuno che voglia sentire, insomma, un'altra campana, ecco, anche. Certo, sicuramente, bisogna però da parte nostra anche scegliere, ma questo è un discorso che va fatto ad ampio spettro, noi lo riprendiamo tra non molto, scegliere le fonti anche di informazione, stare un po' attenti, un po' in campana, perché gira un po' di tutto ovviamente su internet, no? Quindi è vero che da una parte internet ci fa raggiungere qualunque luogo del mondo, ma ci fa anche invadere di un sacco di bugie da qualunque luogo del mondo. Lì purtroppo, sì, sì, sì. No? Immagino che voi lo sappiate bene studiando questo genere di fenomeni, sì, sì, tra le persone. Indubbiamente, indubbiamente. Fonti autorevoli, comitati scientifici, insomma, sicuramente è quella la strada. Benissimo, grazie davvero tanto. Grazie. Buon lavoro, buon proseguimento. È stata con noi Chiara Cerami, ricercatrice senior in neurologia della Scuola Universitaria Superiore di Pavia. Noi diamo la linea a GR24. Torniamo subito dopo per parlare di Turchia, della nuova legge turca che va appunto a toccare i social media, ma ne parliamo non solo con esperti di Turchia, ma anche con esperti di social media, per vedere appunto quante bugie girano sul web, come possiamo magari smascherarle o quali tipo di bugie possiamo aspettarci che gireranno in futuro. Tra poco. Ma cos'è quest'estate? Proseguiamo in questa puntata di Ma cos'è si può fare? Da Laura Bettini ancora una buona giornata, come vi avevo annunciato. Adesso partiamo dalla Turchia, partiamo dalla legge appena approvata che consentirà al governo turco più controllo sui social media, ma poi proseguiremo in generale parlando di social media. C'è da segnalare tra l'altro l'audizione ieri dei quattro uomini più potenti della Silicon Valley, ma potremmo dire anche di mezzo mondo, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai, sono comparsi all'antitrust degli Stati Uniti, questi amministratori delegati di Apple, Amazon, Google e Facebook. E ci sono molte questioni che sono state poste alla loro attenzione, diciamo così. Si è anche parlato di dati, di valore dei dati degli utenti, di monopolio, di controllo. Insomma, è partita l'audizione, se vi fa voglia di sentirla la trovate ovviamente su internet, che più che un'audizione sembrava un processo. Poi dopo ci sono state ovviamente altre situazioni, ma è interessante vedere come si è svolta e cosa è accaduto. Invece Come dicevamo, in Turchia siamo a un livello diverso, ovviamente anche perché queste aziende di cui abbiamo parlato non hanno sede in Turchia, però il Parlamento turco ha approvato una legge che, come dicevamo, consentirà al governo un maggiore controllo sui social media e quindi anche su Facebook, Twitter, YouTube e così via. Abbiamo per parlarne in collegamento innanzitutto un'esperta di Turchia dell'ISPI, Valeria Talbot, analista, buongiorno, che non ci sente però, e poi abbiamo una ricercatrice informatica della Università Ca' Foscari di Venezia, Fabiana Zollo, buongiorno. Buongiorno. Membro anche della task force di data science di AGCOM per la disinformazione, perché anche lì vogliamo arrivare. Partiamo dalla Turchia e voliamo fino alla disinformazione. Vediamo se invece adesso però Valeria Talbot ci sente. Buongiorno. Ecco, buongiorno, buongiorno. Cominciamo dalla questione turca. C'è una nuova legge con maggiori controlli, ma come vogliono farli questi maggiori controlli sui social network? Questa legge comunque dà ampi poteri alle autorità turche per intervenire in maniera restrittiva sui contenuti divulgati dai social network. In quanto appunto dovendo nominare una rappresentante nel paese, i grandi social network, da Twitter a Facebook, dovranno avere appunto un referente locale turco a cui le autorità potranno chiedere conto, quasi. Sì, chiedere conto, portare le loro, diciamo, tra virgolette, lamentele nel caso in cui considerino che i social media abbiano violato la legge, e quindi dei controlli stretti, perché nel caso in cui non ottemperino alla rimozione dei contenuti devono pagare appunto delle multe molto salate che vanno oltre il milione di dollari, e se non lo fanno avranno delle riduzioni della banda larga, quindi questo significa poi non poter più raggiungere gli utenti. Assolutamente, si tratta appunto dei grandi social media, di quelli che hanno oltre un milione di utenti. Quindi prevalentemente stiamo parlando di quelli che conosciamo e utilizziamo anche noi, no? Saranno i più diffusi, immagino, in Turchia, sì, come da Twitter noi. Twitter innanzitutto, perché Twitter è un'importante fonte di informazioni, di contenuti, quei contenuti che non si trovano oggi sui media ufficiali, considerato che in Turchia negli ultimi anni c'è stato un progressivo controllo da parte delle autorità, dei media, quindi media la maggior parte sono allineati al governo, le voci critiche sono state via via marginalizzate. Ricordiamo che nel 2016, dopo il fallito golpe di luglio con lo stato di emergenza, migliaia e migliaia di testate giornalistiche sono state spazzate chiuse via, sì, certo. E con questo innumerevoli siti web, account Twitter chiusi, quindi diciamo è una tendenza che è in corso da diversi anni, anche prima del tentativo di golpe, che ha appunto portato ad una forte stretta di tutte quelle che sono le voci di dissenso. Anche prima c'erano state delle chiusure di Twitter, di YouTube, ricordiamo anche che... Questo è più sottile, no? Però che adesso io ti dico, non è che te lo chiudo, ti dico voglio un referente e con il quale prendermela nel caso il contenuto sia inopportuno rispetto al mio criterio, però poi dopo. Sì, un controllo. Quindi voglio fare ulteriore, il censore, ecco. È ulteriore, è proprio di censura, ha parlato Human Rights Watch e anche Amnesty International. E l'accesso alle informazioni, ci diceva, da un punto di vista del cartaceo in Turchia, insomma, molte testate sono state spazzate via, altre possibilità di accesso alle informazioni diverse da quelle ufficiali verso l'estero ci sono? Ci sono tanti. Ci sono delle limitazioni, come sappiamo, sulla Cina oppure no? Ma ci sono delle limitazioni, ci sono dei controlli, dei contenuti, però ci sono anche diversi siti gestiti anche da giornalisti che non si trovano più in Turchia, che appunto continuano a fare un'informazione, certo, non ufficiale, cioè non in linea con quella ufficiale, ecco. Esattamente. Allora, io comincerei a coinvolgere Fabiana Zollo, come dicevo, ricercatrice in informatica alla Ca' Foscari di Venezia, membro appunto della task force di data science di Agicom per la disinformazione. Fabiana Zollo, è lo strumento della censura, è uno strumento, diciamo così, astuto per controllare o forse ci sono altri strumenti con i quali si può intervenire sui social media per ottenere lo stesso risultato alla fine? Ma guardi, penso che l'esempio della Turchia in questo senso sia emblematico e anche molto interessante, perché noi di solito quando pensiamo ai social media, e soprattutto negli ultimi periodi, abbiamo questo focus sulla disinformazione, quindi sul fatto che i social siano in qualche maniera veicolo di disinformazione, quindi anche un pericolo per la democrazia. Quando ad esempio in altre situazioni invece sono appunto il mezzo che consente ancora in parte di fare informazione, di fare informazione. E quindi è interessante perché questo ci fa capire anche qual è il pericolo di invocare spesso la censura, che è quello che accade invece nelle nostre democrazie occidentali, quando invece ci vogliamo rapportare alla disinformazione. Pensiamo che magari la soluzione possa appunto essere il tentativo di censura di informazione che possa danneggiare il dibattito pubblico. In realtà questo non è necessariamente vero, nel senso che, allora, di base si pone il primo problema, che appunto viene emerso anche da quanto diceva prima di me Valeria Talbot. Esatto, perché? Perché comunque chi è che decide che cosa è offensivo? In quel caso ovviamente ci sono le autorità turche che decidono se un certo contenuto in qualche maniera non è appropriato. E quindi anche, abbiamo visto negli Stati Uniti decidere se il contenuto di Trump era appropriato o no da parte, esatto, del social media stesso. Il problema è che la decisione di che cosa sia appropriato o meno, capite bene che può essere abbastanza labile, certo, nel senso che anche proprio la definizione di disinformazione stessa è una... Insomma, è molto dal punto di vista del soggettivo, ecco, diciamo. Poi ovviamente ci sono anche dei casi in cui magari appunto l'informazione, diciamo, veritiera, di base evidente, però comunque la maggior parte dei casi è molto difficile porre il paletto su che cosa poi debba essere socialmente accettabile e cosa no. E quindi è estremamente pericoloso muoversi in una direzione che invoca la censura come arma preventiva nei confronti della disinformazione. Quello che però si può fare è invece lavorare su altri livelli. Si può lavorare cercando di mettere buona informazione nel sistema, che quindi faccia da contrappeso a quella, diciamo, che noi possiamo ritenere cattiva. Possiamo lavorare sul fronte educativo e quindi educare non solo i cittadini ma anche i comunicatori all'esercizio dello spirito critico, al vaglio delle notizie, al, per esempio, comprendere come funziona un metodo scientifico nel comunicare notizie scientifiche. Ci sono diversi, appunto, possiamo cercare di adattare la strategia comunicativa alle piattaforme social, che sono un ecosistema informativo diverso da quello costituito dai media tradizionali, che probabilmente richiedono anche degli strumenti diversi per comunicare e raggiungere il pubblico. Ma non è certo la censura che potrà salvarci dalla disinformazione. Quello che può succedere è che appunto possa limitare la libertà di espressione anche da noi, e che, ripeto, comunque il problema principale è poi nel definire che cosa vada censurato e chi dovrebbe farlo, perché noi stiamo spesso, sento chiedere alle piattaforme, quindi a compagnie private, di imporre delle restrizioni sui contenuti, e non so quanto questo è qualcosa che è in linea con il nostro spirito democratico o l'idea che noi abbiamo. certo, libertà di espressione nel dibattito pubblico. Precisamente. Poi voglio arrivare anche alle ricerche che avete fatto, che sono molto interessanti, sulla previsione di ciò che sarà fake news, che credo sia veramente un discorso affascinante e utile anche conoscere, insomma, come funzionano certi meccanismi. Ma vorrei prima tornare alla Turchia. Valeria Talbot, intanto si ha ovviamente dei commenti su quello che ha detto adesso Fabiana Zollo, perché non vorrei assolutamente togliere la parola nel caso. No, concordo sulla difficoltà di mettere dei paletti sui contenuti e sulla difficoltà di decidere cosa va bene e cosa non va bene. Tra l'altro in Turchia comunque, proprio di recente, con la crisi da coronavirus, sì, c'è stata un dibattito molto acceso su quanto veniva divulgato, sulle notizie e sui dati che venivano divulgati dai social media, considerati dal governo come fake news, perché molto distanti da quelli invece divulgati dal Ministero della Salute. E anche in quel caso in Turchia degli account sono stati chiusi, addirittura delle persone sono state messe sotto processo. Quindi in Turchia vediamo che negli ultimi anni c'è stato un progressivo allentamento del sistema di check and balance, di pesi, contrapesi, di controlli, di anche un indebolimento del principio di ripartizione dei poteri, con una prevalenza dell'esecutivo sugli altri poteri dello Stato, e questo comunque dà alle autorità turche anche una ampia discrezionalità sul decidere cosa sia fake news e cosa no. Questo non fa altro che però polarizzare, credo, la società turca, no? Perché se il dibattito c'è, uno dice c'ho ragione io, l'altro dice c'ho ragione io, uno usa uno strumento e l'altro usa l'altro strumento, alla fine forse peggiora ulteriormente la situazione, non ottiene il governo della situazione. La polarizzazione è una caratteristica del contesto politico turco da diversi anni, perché anche se guardiamo ai risultati elettorali di Erdogan e del suo partito in questi ultimi anni, si vede che proprio c'è poco più del 50% che sostiene, esatto, il presidente, mentre l'altra metà della popolazione turca no. Quindi la polarizzazione è un elemento caratterizzante. Abbiamo visto appunto come quando si è tentato di esercitare ulteriori strette, poi la reazione sia stata quella opposta. Penso al caso delle amministrative a Istanbul lo scorso anno, quando sul dubbio della conta dei voti le elezioni sono state ripetute, e poi lì c'è stata la vittoria schiacciante con un ampio scarto del rappresentante dell'opposizione, di Imamoglu, appunto, che è stato acclamato con oltre 1 milione di voti di scarto sindaco di Istanbul. Dunque, volevo capire se diciamo, questi strumenti sono gli strumenti social, intendo, che vengono utilizzati magari anche, come dire, manipolati dall'estero, oppure è più un'attività che è interna alla società turca, voglio dire, vengono quindi utilizzati dai movimenti di opposizione o, diciamo, infiltrati, se si può capire una cosa del genere. Guardi, su questo non saprei rispondere, anche perché comunque lì è un discorso appunto molto, molto ampio e complicato. La divulgazione c'è, cioè i Twitter vengono utilizzati, quanto ci sia di infiltrazione, quanto no, non... Infiltrazione buona o cattiva che sia, nel senso che sarà una questione... Sì, buona o cattiva che sia, è chiaro che comunque stiamo parlando di mezzi di comunicazione che non hanno frontiere. e quindi c'è un ampio utilizzo, ma magari su questo, sugli aspetti forse anche un po' più tecnici, la collega. Sì, adesso chiediamo anche a Fabiana Zollo, chiediamo anche senz'altro a lei, si può capire da dove arriva, oppure quando ci sentiamo dire che sono i cinesi, sono i russi, sono qua e là, sono delle supposizioni? Ma allora dobbiamo prendiamole un po' con le pinze, perché allora io sono abituata a lavorare con i dati e quindi di solito appunto tutti i nostri studi sono basati sui dati. Diciamo che non è facile appunto ricostruire appunto questo tipo di influenze, e spesso penso anche che venga un po', soprattutto da noi, onestamente sulla Turchia non posso esprimermi, però vengono un po' utilizzati come capri espiatorio, no? E anche come probabilmente rafforzamento della pericolosità di un certo tipo di disinformazione. In realtà appunto probabilmente quello che credo è che spesso magari ci dovremmo anche forse porre la domanda, che non è così, cioè che è interessante, perché ci potrebbe far comprendere perché per esempio le persone credono a certe a certi tipi di disinformazione o comunque a certi contenuti, perché spesso a volte ci sono anche delle motivazioni, nel senso che comunque c'è una forte sfiducia anche nelle e nelle fonti di informazione, per esempio mainstream, quindi diciamo ufficiali, che porta anche spesso le persone a cercare, a rifugiarsi in fonti di informazioni, in fonti alternative, dove spesso magari l'informazione non è completamente affidabile o può non essere veritiera. E comprendere questi meccanismi anche cognitivi della maniera in cui ci rapportiamo all'informazione è sicuramente qualcosa, cioè un elemento chiave che abbiamo per studiare il fenomeno, inquadrarlo e proporre delle strategie diverse di contrasto alla disinformazione. Lo studio a cui accennava prima era un tentativo che abbiamo fatto, dato che abbiamo osservato che nel momento in cui la disinformazione c'è e la tecnica principale che negli ultimi anni è stata adottata è stata quella di sbufalare la bufala, quindi tutte quelle attività cosiddette di debunking, e noi abbiamo visto che effettivamente queste attività molto spesso non funzionano, ma non soltanto l'effetto correttivo non è appunto efficace, ma soprattutto spesso può invece avere un effetto di rinforzo delle opinioni di partenza, quindi può essere anche peggiorativo della situazione. Sì, sì. E quindi quello che abbiamo cercato di capire è un po' che cosa possiamo fare nel momento in cui non posso correggere l'informazione dopo, nel senso che non è totalmente efficace, ma non è neanche fattibile se pensiamo proprio al tempo. Ma in realtà a volte l'amplifico addirittura, esatto, perché io ti dico non è vero, lo dice che non è vero, spesso, ma è verissimo, e così spesso via. Spesso si amplifica, spesso riportare della disinformazione, per esempio fornendo dei fatti che la correggano, fa sì che si fissi ancora di più nella memoria l'informazione originaria, cioè la disinformazione da cui eravamo partiti, proprio perché continuiamo a ripeterla per sfatare il mito. Certo. Quello che abbiamo cercato di capire è se invece c'è una maniera in cui possiamo predire, quindi essere in grado di capire quali argomenti nel breve periodo possono essere oggetto di fake news. E questo l'abbiamo visto non andando a guardare il contenuto, ma guardando la maniera in cui sui social quel contenuto viene percepito, la maniera con cui gli utenti si interagiscono, la maniera in cui viene presentato e così via. Perché abbiamo 30 secondi, è più astuta della censura sarebbe una previsione di questo tipo e eventualmente invadere il campo del nemico con notizie che noi vogliamo far risuonare, adattarci. Adattare la strategia comunicativa su quelle notizie, evitando la polarizzazione che è deleteria nel momento in cui appunto depotenziarle in qualche maniera. Farle galleggiare in un nulla. Allora, Valeria Talbot, l'analista dell'ISPI, esperta di Turchia, che è stata con noi, la ringraziamo moltissimo davvero. Fabiana Zollo, ricercatrice di informatica all'Università Ca' Foscari di Venezia, come dicevamo membro della task force di data science e di AGCOM per la disinformazione. Grazie anche a Danilo Di Trani, che è stato in assistenza con Miriam Lucchetti e Riccardo Poli. In regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini, a domani.